Sembra incredibile, ma nel paese sommerso gioca un ruolo importante anche l'evasione totale, fatta da contribuenti che non pagano un euro di tasse e risultano del tutto clandestini al fisco. Il fenomeno non è poca cosa. Lo confermano i dati della provincia di Roma, dove nei primi 11 mesi dell'anno sono stati scoperti ben 537 evasori totali, di cui 352 solo a Roma. Operatori economici che non hanno assolto per uno o più periodi d'imposta agli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, con IVA evasa pari a quasi 470 milioni di euro e un imponibile non dichiarato per circa 2,8 miliardi di euro. In tutto l'equivalente di un buco di bilancio da 3 miliardi di base imponibile sottratti al fisco. Eclatante il caso di un noto pittore di recente deceduto, cittadino americano che aveva omesso di dichiarare in Italia oltre 81 milioni di euro ottenuti dal commercio di opere d'arte in Italia. Ma l'evasione totale non è solo nel campo della cultura. Anche nella ristorazione, nell'edilizia, nelle società immobiliari, nei call center, nei bar, nelle pizzerie, nell'autotrasporto, nelle pulizie, nel commercio ambulante, sia di generi alimentari che di altri prodotti. Nessuno escluso. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.